Non mi piace stare con un fascista in ascensore, mezzo alla gente che non trasmette nessuna energia, sul mio posto di lavoro e in piazza con la Digos, in questura perché mi sento straniera in Italia. Non mi piace stare a messa, durante una manifestazione quando fa freddo e la polizia ti carica. Mi sento male a scuola, piena di italiani razzisti, al supermercato. Mi piace stare. Mi piace viaggiare, ballare, divertirmi sanamente. Me gusta un lugar donde hay mucha gente. Nella metropolitana, perché c'è tutto il mondo. Luce, spazi grandi per mangiare insieme. Voglio andare in Spagna con mia zia Candy. Mi piace stare. Sulla sabbia calda sotto il sole. In un posto con le donne, solo donne. Parlare e discutere di tutto. Cucina, problemi, palestra, Palestina, politica. Vivere senza confini. Care compagne, sorelle, amiche, lo sportello donna del Volturno Occupato invita tutte a un'assemblea cittadina giovedì 3 marzo alle 18:30. Ci piacerebbe raccontarvi il nostro percorso e confrontarci sulla costruzione di uno spazio che possa contenere le nostre esigenze e desideri, un luogo chiamato desiderio dove possano dialogare pratiche diverse, dove ognuna possa sperimentarsi nella composizione fantasiosa della propria vita, più libera dai ricatti di padri e padroni. Assemblea cittadina, giovedì 3 marzo dalle 18:30 in via Volturno 37, vicino alla stazione Termini. Vi aspettiamo! Ti aspettiamo! Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va. Ecco, abbiamo lanciato l'argomento che chiude Atti e Misfatti di quest'oggi, che è appunto un'assemblea cittadina che si terrà al Volturno Occupato il 3 marzo, dopo, fra pochissimo, praticamente giovedì. Eccoci qua. Allora, intanto come nasce questa iniziativa? Magari è un po' che non ci vediamo, aggiorniamoci su questo percorso e sullo sportello donna. Certo, allora l'iniziativa nasce da questo percorso che è da quasi 2 anni ormai che è iniziato al Volturno Occupato, sull'esigenza riscontrata da compagne all'interno del coordinamento di lotta per la casa di aprire uno sportello donna che permetta e che possa accogliere tutte le difficoltà che su più piani le donne si vivono in questa città e nelle loro condizioni di vita, quindi sia un tipo di informazione, controinformazione sugli aspetti legali che vanno sia dalle questioni lavorative ma anche alle questioni che molto spesso si sono trovate di fronte, di situazioni di violenza, di anche situazioni di fuoriuscita da percorsi di violenza dentro le case famiglia, che poi diciamo che poi c'è il vuoto, no? È nella casa famiglia e poi c'è il vuoto. Quindi da questa esperienza e all'interno di questo percorso via via nel tempo comunque hanno realizzato, a parte la forza e la quantità di cose che uscivano fuori da questi incontri e da questo tipo di rapporto, e piano piano si è sentita l'esigenza di aprire una discussione più allargata anche con altre compagne in città sull'importanza di rilanciare e dare forza a degli spazi per donne all'interno dei quali possano nascere percorsi di autoconsapevolezza e rafforzamento della propria coscienza che ti permettano poi di far fronte ai vari livelli di oppressione che ti vivi, e quindi uno spazio che tenga insieme sia il piano più sociale, culturale, nel quale ti confronti, ma anche un discorso anche più materiale di fare i conti poi con delle esistenze che sono sempre più precarie, frammentate, rispetto alle quali comporle e tenerle in piedi è sempre più difficile. E quindi dentro questo percorso, insomma, ci siamo ritrovate in tante e molto diverse tra di noi, per cui provenienti da percorsi diversi, ma anche da storie di vite molto differenti, e la ricchezza delle discussioni poi piano piano hanno portato proprio a un'esigenza, una voglia di condividerle in città con le altre compagne e invitare tutte a questa, insomma, costruzione di questo spazio tutte insieme, e di costruzione politica e di discussione dove possano confluire tanto delle questioni di fondo ma anche delle questioni proprio di espressione dei propri desideri e di realizzazione dei propri desideri. Per cui come percorso è molto ricco e sì, immagina. E anche complesso, perché proprio le storie che, e le vite che abbiamo veramente a volte parlano mondi che normalmente non comunicano. Però insomma già partire dalla consapevolezza che è un luogo diciamo attraversato, gestito e autogestito da sole donne è un ottimo diciamo punto di partenza, se non altro per ricaricarsi e come dici tu poi andare fuori ad affrontare appunto i tanti tipi di oppressione ai quali dobbiamo fare fronte. E a Roma, ma in generale, questi luoghi sono proprio pochissimi. A Roma ne abbiamo altri due, tanto perché insomma si contano veramente ampiamente nella dita di una mano. Uno un po' lontano, l'altro è centrale, ma vive momenti burrascosi, come sappiamo, insomma, è sempre sotto sgombero. Quindi è un'ottima insomma idea, diciamo, questa di allargare la riflessione e poi proprio occuparli, insomma, questi spazi tipo con un'assemblea al Volturno, eccetera. Sì, infatti nel volantino dell'iniziativa del 3 ricordiamo anche dello sgombero del 4. Infatti, 22. Il 4 c'è l'ennesimo tentativo di accesso e noi saremo come sempre lì, c'è una certezza sola, è quella, ci troveranno sempre là davanti. Quindi non so se Adriana gli va un po' di raccontare anche... Sì, vabbè, la mia esperienza è un pochino più corta, non ha due anni, ma io mi sono rivolta al centro Volturno inizialmente per assessoria, perché mi hanno detto che aveva un'assessoria legale per questa questione abitativa, e poi mi hanno detto che direttamente c'è un gruppo di donne. Allora mi sono iscritta nella scheda, piano piano sono cominciata con le riunioni molto contenta, molto soddisfatta, perché come dicevi benissimo siamo pochi gruppi di donne, di donne per donne, dove possiamo condividere tante esperienze personali e poi collettive, perché alla fine tante cose che noi siamo vittime in generale a livello lavorativo, a livello personale, a livello pure di società, succede non solo a me come donna, magari a noi è un gruppo, uno impara tanto dell'altro condividendo tante esperienze, e poi si rinforza tanto, che sono molto molto contenta, soddisfatta. E ancora, guarda, per me questo è un progetto che ancora ha molto di più da crescere, allora molto di più positiva per tutto lo che vendrà, no? Benissimo, no? Infatti, mi sembra l'atteggiamento giusto e insomma è vero. Quindi vogliamo ricordare insomma l'appuntamento importante che è al Volturno giovedì 3, a che ora inizia? Dalle 6 e mezza. E speriamo che sia insomma un momento così che aiuti poi ad andare avanti e arricchisca ulteriormente il percorso. Poi parlando di arricchire nel senso oppure di donne, ma transculturale, perché certo. Uno è donna indipendentemente dalla nazionalità. Allora mi sento molto aperta, molto oppure come aperta, ecco. Allora è bellissimo condividere con persone che magari in certe cose stanno passando tutti per lo stesso, ma in altri punti diversi punti di vista oppure arricchiscono. Bravo, certo. Sì, infatti. Va bene, quindi vogliamo aggiungere qualcosa, rifacciamo sentire lo spot, così rimane impresso l'appuntamento e poi vabbè ovviamente nei martedì anche successivi, anche questo è un luogo a modo suo che il martedì diciamo è separato, certo. Si crea, quindi può essere un veicolo per iniziative future o comunque per riparlare e rilanciare questi temi fondamentali. Va bene, grazie. Ciao. E allora ascoltiamoci lo spot.